Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. In totale, se mettiamo insieme tutte le persone, tutte le intelligenze che abbiamo formato nel nostro paese e negli ultimi 20 anni hanno poi lavorato all'estero, abbiamo perso circa 4 miliardi di euro. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi abbiamo deciso di aprire la puntata con le parole pronunciate qualche settimana fa dal sindaco di Roma Ignazio Marino. Marino, chirurgo di livello internazionale, ha spiegato in cifre la perdita commerciale della fuga dei cervelli italiani all'estero. Ha aggiunto che il valore dei 155 brevetti registrati oltre confine dai 20 migliori ricercatori italiani negli ultimi 20 anni ammonta a 2 miliardi di euro, che salgono a 4 se consideriamo tutte le persone formatesi in Italia e poi espatriate per lavoro, soldi che avrebbero potuto arricchire il nostro paese. Sava Sandia. Oggi, quale frase della settimana, abbiamo scelto una recente affermazione del ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato. Dobbiamo fare in modo che i nostri giovani vadano all'estero, ma per girare, fare esperienza, affermarsi e tornare. Allo stesso modo, dobbiamo far sì che i giovani stranieri vengano in Italia, ha detto. E non c'è più tempo da perdere, aggiungiamo noi. La disoccupazione giovanile è al record storico del 40,4%, 654.000 giovani sono senza lavoro, con un boom di giovani inattivi abbondantemente sopra i 4 milioni e il tasso di occupazione giovanile al minimo storico del 16%. Tra i settori con le peggiori rendite di posizione acquisite figura l'università, come dimostra la storia della settimana. Prima di far tornare i nostri migliori giovani, rimuoviamo i baroni e le cariatidi che li hanno fatti scappare. Oggi una puntata interamente dedicata ai nostri giovani talenti in università. Il grande inganno è sicuramente la raccomandazione, ovvero comunque il pupillo del professore in commissione sarà sicuramente il candidato fortunato. Valentina Calista, 30 anni, è una dottoranda all'Università di Reading in Inghilterra. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. News monotematiche con l'intervista di Giovani Talenti al ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza. Con lei iniziamo un percorso all'interno della fuga dei cervelli in Accademia. Siamo partiti da un commento alla storia di Valentina, che ascolterete per intero tra poco. L'università italiana è ancora il regno dei baroni, le abbiamo chiesto? Non so se la definirei il regno dei baroni, ma... è vero che non è aperta, cioè non è un luogo aperto sufficientemente quanto dovrebbe essere un luogo accademico, e non ci sono abbastanza ricambi anche nelle sedi e si tende a privilegiare le scuole interne all'università. E questo è un fenomeno negativo da tutti i punti di vista. Non tutte le università sono così. Io stessa vivevo in un ambiente dove era normale che ci fosse il ricambio, anche attrazione di studenti stranieri come obiettivo principale. Però purtroppo invece l'università in generale non è mobile. Se lei oggi avesse 20 anni e volesse avere una carriera in università, resterebbe in Italia o emigrerebbe, in tutta sincerità? Ma io, in tutta sincerità, cercherei un ambiente aperto. Io stessa ho potuto fare la carriera che ho fatto solo grazie al fatto che ero in un luogo dove si privilegiava l'indipendenza, l'autonomia, la capacità di leadership. Avrei cercato questo. Mi dispiace perché anche qualche giorno fa una persona a me molto cara, una giovane, mi ha detto proprio questa frase qui: se voglio far carriera universitaria mi devo far notare dal professore. Sentirlo dire da un ministro è quasi offensivo, però purtroppo se i giovani a 20 anni pensano mi devo far notare dal professore, non mi noterà mai. Se voglio far carriera, questo è indice di un ambiente malato che dobbiamo cambiare. Però le resistenze al cambiamento sono forti. Qualche mese fa la Consulta ha consentito ai professori universitari di restare in servizio oltre 70 anni. Allora io le chiedo, dov'è il ricambio generazionale in un paese con la classe dirigente accademica tra le più vecchie al mondo? Lei stessa dice che abbiamo bisogno di giovani insegnanti, però se poi certe sentenze consentono a degli anziani professori di rimanere in cattedra, non ne usciamo più. Penso che a 70 anni i professori, se fossero generosi, onesti e tenessero la loro università, dovrebbero andare in pensione e offrirsi di fare gratuitamente seminari, di seguire laureandi, offrire le proprie biblioteche, le proprie bibliografie e tutto quanto all'università. Quindi chi vuole rimanere oltre i 70 anni, secondo me, offende la propria università e i giovani che tanto hanno bisogno di entrare nel mondo accademico. E quindi io sono sempre stata per un pensionamento rapido, magari non uguale per tutti, nel senso con una valutazione, c'è qualcuno che può rimanere rimanere a insegnare fino a 80 anni, però è vero che non si può ottenere il posto e pretendere, come dire, di rimanere lì perché è un mio diritto. Prima di tutto bisogna pensare ai propri doveri e poi ai propri diritti. È un momento di sacrifici per tutti, a maggior ragione le devono fare le persone che hanno 70 anni e che hanno avuto tanto da questo mondo. Secondo, noi abbiamo pensato di risparmiare bloccando il turnover per anni, e ancora sto combattendo contro il blocco nel turnover nell'università e nella ricerca, che significa la morte dell'università e della ricerca. Risparmiare sul turnover significa chiudere le porte a quello che per l'università è fondamentale, cioè il ricambio generazionale. Purtroppo invece nell'Accademia italiana il posto di professore è visto come una sacca di privilegio in cui nessuno ti può toccare. Lei ha dichiarato: i giovani laureati vanno all'estero per trovare trasparenza e meritocrazia. Se non invertiamo questa tendenza, l'Italia diventerà sempre più un paese marginale in Europa. Inversione di tendenza, allora, qual è il progetto a suo parere più incisivo che il suo dicastero ha varato in questi 7 mesi di governo, se dovesse sceglierne uno? Ma intanto abbiamo portato il turnover al 50% il prossimo anno, dal 20 al 50%. Secondo, le poche risorse che ho trovato sulla ricerca, quasi zero, le abbiamo tutte messe su un programma per i giovani ricercatori. Terzo, noi ci sforzeremo di premiare gli atenei che hanno giovani ricercatori come responsabili dei programmi di ricerca. Il progetto più importante che vuole mettere in campo, sì, sul brain drain nell'immediato futuro? Sicuramente voglio far sì che costi meno chiamare una persona da fuori, cioè le carriere diagonali rispetto alle carriere interne, perché credo che questo sia un male dell'università italiana. Secondo, voglio premiare chi è capace di attrarre studenti stranieri in Italia, chi è capace di attrarre professori. La presenza di professori stranieri in Italia è ridicola nei nostri atenei, però senza investimenti selettivi questo non si può fare. Noi siamo ai limiti della sopravvivenza come sistema universitario. I precedenti programmi di rientro dei cervelli sono stati purtroppo un po' un flop negli ultimi 10 anni, in un decennio ne sono, sì, tornati poco più di 500. Lei ha appena varato una versione rivista del bando Montalcini, perché questa volta funzionerà? Perché questa volta noi daremo la possibilità, cioè regaleremo i famosi punti organico, nel senso che garantiremo il consolidamento di questi ricercatori dentro al sistema universitario. Non si può fare l'attrazione con i contratti a termine, li devi fare essere professori con una posizione decorosa e degna del sforzo che hanno fatto del rientro in Italia. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna. Spesso parliamo in modo estremamente critico del baronato di stampo medievale che permea e ingessa molte delle nostre università e lo mettiamo impietosamente a confronto con la meritocrazia anglosassone. Beh, oggi ci aspetta proprio un caso da manuale. Nome: Valentina. Cognome: Calista. Età: 30 anni. Città di origine: Roma. Studi: Lettere e Filologia Moderna. Anno in cui hai lasciato l'Italia: Maggio 2013. Per andare dove? Reading. Perché? Ho vinto una borsa di dottorato. Quale lavoro svolgi attualmente? PhD Scholar. Dove? University of Reading. Tornerai? Per ora non ci penso. Ready to go, pronti a partire. Repubblica ci portano insieme a te, Valentina, in Inghilterra per raccontare una storia che ci ha fatto arrabbiare, ci ha commosso e ci ha reso orgogliosi una volta di più dei nostri giovani all'estero. Storia che inizia con un atto di ribellione. Durante l'ultima prova di dottorato a Chieti mi alzai, lasciai il foglio in bianco e lo consegnai al presidente della commissione. Lui mi chiese: signorina, c'è qualcosa che non va? E gli risposi: sì, sono venuta perché ho pagato 60 euro di tassa e per togliermi lo sfizio di osservare quanto sia tutto una buffonata. Me ne vado in Inghilterra. Valentina, giusto per far capire quanto tu avessi ragione, cosa commentò l'altro commissario? L'altro commissario mi disse: signorina, complimenti, lei ha capito tutto. Lei ha capito tutto. La tua è una storia straordinaria che fotografa con una lucidità impressionante il marcio che ha distrutto e soffocato il funzionamento dell'università italiana. Storia che parte con l'iscrizione a Filologia Moderna, Università della Tuscia di Viterbo. Perché una scelta così orientata agli studi classici, settore che tu stessa definisci molto fragile? Semplicemente per passione. All'epoca non pensai certamente a tutte le conseguenze che l'Italia sta subendo in questo periodo. E col senno di poi, in tutta onestà, ti sei pentita di aver studiato in Italia? Sarebbe stato meglio cominciare all'estero? No, non mi sono pentita di aver studiato in Italia, perché comunque credo ancora nella potenza dell'università italiana. Ti sei laureata 1 anno e mezzo fa con 110 lode al termine della specialistica. Che voto dai da studente tu all'università italiana? Do un 6 e mezzo, perché secondo me non investe nel suo immenso potenziale, un po' come uno studente sbogliato. Giovani Talenti, Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Valentina Calista, 30 anni, dottoranda all'Università di Reading in Inghilterra. Valentina approda 6 mesi fa oltre Manica, dove da poche settimane ha avviato il PhD a completamento di una laurea in filologia moderna. La sua storia racchiude un condensato della peggiore Italia baronale. Conclusa l'università, gira la penisola, provando concorsi dove i nomi dei vincitori sono già scritti, e parliamo di un anno fa. Poi, quando trova da sola e senza aiuto alcuno un'occasione in Inghilterra, la sua docente infastidita le nega la lettera di referenze. Solo un aiuto in extremis da parte di un altro professore le concede quella lettera indispensabile a passare la selezione per il PhD. Oltre Manica, Valentina vede applicati finalmente i concetti di ricerca e merito in università. E ci raggiunge ora in linea Nicola Gardini, docente all'Università di Oxford, nonché scrittore in libreria. Da mercoledì c'è il suo ultimo libro, Fauci, e autore tra gli altri del libro autobiografico I Baroni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Nicola, i baroni uccidono la cultura, i baroni uccidono i giovani, dentro e fuori le università, perché barone non è solo il professore barone, ma è colui che accetta questo infinito e incistato sistema di corruzione, scrive Valentina a Giovani Talenti. Nicola, tu sui baroni hai scritto un libro. Quanto condividi questa descrizione del mondo accademico italiano? La condivido pienamente. Io stesso ho scritto il libro su questo grande problema. Naturalmente ci sono le eccezioni, ma non possiamo assolutamente descrivere un sistema partendo dalle eccezioni. La condizione dell'università italiana è drammatica, è governata dal clientelismo, dal nepotismo, dalla corruzione, dallo scambio di favori, e così è per tutti, dall'alto al basso e dal basso verso alto. Nicola, i baroni autobiografico racconta la tua storia personale, la storia di un giovane che dopo un dottorato in letteratura comparata alla New York University vince per caso e senza raccomandazioni un concorso a Palermo. Da lì si dipana un'odissea paradossale e kafkiana da sud a nord, tra concorsi truccati, baronie soffocanti e promesse mai mantenute. In breve, ci puoi riassumere la tua storia? Insegnavo erudito ruolo al liceo a Milano. Una telefonata semi-anonima mi consigliò di fare un concorso, di spedire i miei documenti a Palermo. Lo feci, vinsi, perché bisognava fare un torto al candidato locale, sostenuto dal capo di del dipartimento. Venni immediatamente marginato. Nonostante tutto mi feci strada, riuscii comunque ad avere studenti che però mi vennero poi tolti, a ottenere un ufficio che mi venne tolto, a ottenere dei corsi che mi vennero tolti, e anche a passare un altro esame di concorso, acquistando il titolo di professore associato, che però non sono mai arrivato a spendere, perché poi me ne sono andato in Inghilterra, mi sono licenziato. E dal 2007 arrivi, sei in Inghilterra, dove insegni letteratura italiana comparata alla prestigiosa Università di Oxford. Quante altre Valentine, quante altre giovani promesse dell'università italiana hai visto approdare in questi anni oltre Manica? Moltissime. Molte delle mie dottorande sono italiane. Parlo di dottorande perché spesso mi capitano studentesse, non studenti. Molte sono comunque anche le application che riceviamo dall'Italia. Si tratta di persone spesso già competentissime. Valentina, hai una domanda per Nicola Gardini? Quali potrebbero essere le ragioni profonde che spingono un professore a negare una semplice lettera di referenza? Credo un senso profondo di impunità e, come l'hai definito tu, un abuso di potere, la totale sottomissione delle istituzioni al proprio egoismo. Penso che alcuni termini vengano utili, come invidia, gelosia e anche sopraffazione. I giovani dentro gli atenei a volte sono come narcotizzati, non vedono il marcio o fanno finta di non vederlo e quindi non protestano. Nicola, così hai denunciato in una recente intervista. Non c'è proprio speranza di un ricambio generazionale? L'università italiana, ti chiedo, è destinata a marcire nel suo baronato? Sì, sicuramente, finché dal marciume, come nel quarto libro delle Georgiche di Virgilio, non rinascerà lo sciame delle api che riporteranno la vita. Il declino è inarrestabile e probabilmente deve ancora toccare il fondo. Non escludo naturalmente una ripresa, però una ripresa che deve accompagnarsi anche a una ripresa civile del paese. Questo è il grande problema. Sono completamente d'accordo con te. Grazie a Nicola Gardini. E domanda diritto a Valentina Calista: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Mettere da parte la paura, trovare un po' di coraggio in se stessi e non esitare a chiedere all'estero, perché ci sono molte persone disponibili e pronte anche ad aiutare i giovani. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un senior project manager con esperienza nella consulenza Human Dynamics tra Vienna, Sofia o Belgrado, scadenza per i CV 15 novembre, info su humandynamics.org. Un HR manager per Microsoft in Belgio con formazione nelle risorse umane, scadenza per i CV 11 novembre, info su microsoft-careers.com. E infine un postdoc in bioinformatica per la Swedish University of Agricultural Sciences a Uppsala in Svezia, scadenza per i CV 19 novembre, info su slu.se. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vogliamo andare controcorrente e promuovere l'idea del controesodo verso l'Italia, ma a precise condizioni. È il tema del quale si occupa il giornalista Antonio Siracusa, fondatore del blog Io Torno Se. Non mi sembra più tanto di attualità l'idea della fuga, perché ormai diciamo è una decina di anni già che vedo, forse anche di più, che vedo moltissimi ragazzi che vanno a studiare o a lavorare all'estero, soprattutto nel sud Italia dove io vivo, quindi è un fenomeno di lunga data. Quindi ho iniziato un po' a ragionare sull'idea proprio del ritorno, cioè sulla possibilità che questi ragazzi possano tornare e a quali condizioni possano tornare in Italia. Quindi il blog si basa essenzialmente sulle storie degli emigrati e sulle, appunto, sulle condizioni che pongono al paese. Quindi, quali sono? Approfondiamo in breve queste condizioni. Quali sono le condizioni più ricorrenti? La maggior parte delle condizioni riguardano il lavoro, quindi il rispetto del lavoro, la possibilità che il lavoro non sia gratuito, quindi che debba essere retribuito. Questo è un requisito essenziale. Però ogni storia, diciamo, mette in evidenza un aspetto particolare. Ci sono anche delle condizioni più culturali, un cambio radicale di mentalità in Italia? Assolutamente, assolutamente. Questo è un altro aspetto che emerge in maniera evidente dalle storie del blog. Sul blog ci sono anche indicazioni concrete su come eventualmente tornare? Ma indicazioni concrete no, più che altro sono delle proposte fatte alla politica. Quindi l'idea del blog è quella magari di mettere anche in comunicazione queste persone con le istituzioni, con la politica, fare in modo che la politica riesca ad ascoltare questa voce di centinaia di migliaia di ragazzi che vivono all'estero. Io direi che è molto importante che sia proprio la politica ad ascoltare il punto di vista di questi ragazzi, perché spesso l'Italia vista da fuori è vista, diciamo, con più lucidità di chi ci vive all'interno, e di questo sono abbastanza convinto. Siamo tutti d'accordo che un controesodo massiccio di questi talenti qualificati con una mentalità aperta può aiutare sostanzialmente il paese, ma tu sinceramente credi questo possibile nell'Italia di oggi? No, io in realtà non sono molto ottimista, e dico la verità, in realtà anch'io prendo le storie del mio blog Io Torno Se come dei consigli personali, perché anch'io sono in una situazione lavorativa piuttosto precaria, piuttosto difficile, quindi sto anch'io valutando se partire o rimanere in Italia. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.iotornose.it. Un motivo per restare o tornare. Il piano per la garanzia giovani è stato approvato dalla struttura di missione istituita presso il Ministero del Lavoro. Attraverso il piano l'Italia attuerà misure per assicurare che i giovani under 25 ricevano una formazione adeguata alle loro attitudini e vengano sostenuti e indirizzati verso il mondo del lavoro. Attualmente sono circa 1.300.000 i giovani italiani che non lavorano né studiano. Il target minimo cui applicare la garanzia è pari a 204.000 giovani. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava e aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Ritornare ma come? Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio internettivo. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre è: di fronte al rischio declino, l'Italia rivuole i suoi talenti ora all'estero o dice di rivolerli? Le mosse degli ultimi due governi vi convincono? Cosa fare di più? Cosa chiedete in tre concreti punti al sistema Italia per tornare? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.